come al nostro primo appuntamento un anno fa. Oggi aspetto un'altra e tutto si ripeterà. Camminiamo un poco e mentre prendo la sua mano, il cuore mi domanda piano: chi sarà con te? Forse la sua mano stringerà la tua. Chi sarà, sarà magari emozionato come io con lei. Non parliamo più, io mi avvicino e sfioro le sue labbra, ma penso a chi sarà con te. Lucide vetrine, specchi per gli innamorati, cinema da pochi soldi, strade sconosciute. Lei che ti assomiglia un poco e il fuoco si riaccende, ma un po' di nostalgia mi prende. Chi sarà con te? Chi ti stringerà forte come me? Ormai se l'ho voluto io, caro amore mio, mentre io ti penso, chi sarai?